Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione della mobilità elettrica risiede nella necessità di ricaricare i veicoli, operazione che comporta molto tempo rispetto a quello impiegato per fare oggi come oggi un pieno di carburante. Una possibile soluzione a questo problema consiste nel trasformare le strade in superfici in grado di ricaricare le auto che ci passano sopra, sfruttando un principio non molto diverso da quello della cottura a induzione, per capirsi. Ebbene, Electroad, una startup israeliana, ha messo a punto una tecnologia che permette appunto di convertire in strade elettriche le strade esistenti con un intervento poco invasivo che permette di attrezzare circa 1 chilometro di strada al giorno. E un primo test si è già svolto a Tel Aviv, dove una ventina di metri della principale arteria stradale della capitale israeliana sono stati appunto elettrificati. Allora, per commentare la notizia e aiutarci a capire anche un po' di più su questo tema delle strade elettriche, c'è in linea con noi il professor Dario Zaninelli, che è docente di sistemi elettrici per i trasporti al Politecnico di Milano. Buonasera Zaninelli. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, io un po' l'ho già detto, ma insomma, come funziona più o meno questa tecnologia e come funziona anche questa soluzione messa appunto dalla startup israeliana? Beh, questa soluzione funziona alimentando le batterie del veicolo elettrico a bordo tramite un accoppiamento induttivo, quindi un trasferimento di potenza per induzione. Attraverso il campo, un campo magnetico, no? Un campo magnetico, esatto, un campo magnetico dove delle bobine fisse che sono poste, diciamo, sotto il piano dell'asfalto, dialogano con la bobina a bordo del treno, si interfacciano, passano quindi per induzione elettromagnetica l'energia con un principio molto simile a quello del trasformatore. Esattamente lo stesso, direi, no? Sì, esattamente lo stesso, le frequenze sono molto più alte perché per garantire un trasferimento di potenza più elevata e quindi ridurre le dispersioni bisogna far sì che la corrente che percorre queste bobine sia a frequenza intorno ai 20 kHz a differenza dei 50 Hz che noi abbiamo nelle nostre distribuzioni domestiche. Ecco, come avviene l'elettrificazione della strada? C'è questo caso appunto della startup israeliana che sembra, diciamo, abbastanza semplice come procedura. Sì, avviene attraverso uno scavo non molto profondo nell'asfalto, la posa... Pochi centimetri, una decina, non di più, no? Sì, sì. E una posa, diciamo, di una pista conduttiva che viene alimentata tramite delle bobine fisse. Queste bobine sono a loro volta alimentate da degli inverter che servono appunto per trasformare la potenza elettrica dai 50 Hz ai 20 kHz, come appunto abbiamo detto prima, e si attivano questi dispositivi solo quando passa il mezzo per evitare il problema della presenza di campi elettromagnetici. Ecco. Durante, diciamo, lo stazionamento delle persone. Ecco, perché infatti quello che volevo capire è se questo approccio, diciamo, non ha problemi da un lato di efficienza, cioè si perde magari molta energia in questo trasferimento rispetto ad attaccare un cavo, e l'altro problema è se questa energia poi non finisce nell'ambiente diventando una fonte di cosiddetto inquinamento elettromagnetico. E sul primo tema il rendimento è molto più basso della ricarica conduttiva. Qui siamo a rendimenti che vanno dal 70 all'80%, in quanto il gap tra la bobina trasmittente e quella ricevente è circa di 15-20 centimetri, e in questo naturalmente nella trasmissione ci sono dei flussi dispersi e quindi non viene la potenza trasmessa tutta, ma i rendimenti siamo intorno a valori che variano dal 70 all'80%. Per quanto concerne invece il problema dei campi elettromagnetici, sì. Le applicazioni che finora sono state svolte hanno portato anche delle misure speciali, vedono che sono valori compatibili con le normative. Ok, quindi insomma anche perché il veicolo, diciamo, perché il veicolo è schermato, perché la bobina a bordo è schermata e quindi il campo magnetico si richiude nello schermo. Poi di solito le automobili hanno delle parti in metallo e al limite e finisce lì dentro, no? Il campo magnetico, prima che nel corpo della persona. Senta, rapidamente le chiedo se ci sono altre esperienze al di là di questa israeliana e se lei vede veramente possibile alla fine uno scenario del genere in cui invece di andare a ricaricare alla colonnina semplicemente ci sposteremo magari su una corsia dedicata per ricaricare i mezzi elettrici. Sì, altre esperienze ce ne sono, la più interessante è quella del KAIST, che è il Korean Advanced Institute of Science and Technology, dove all'interno del proprio campus hanno creato un percorso una pista, se vogliamo chiamarla, per la ricarica dei veicoli in movimento. E infatti i dati sperimentali migliori, diciamo più aggiornati, sono quelli che derivano da questa esperienza. È un tema di ricerca e sicuramente si potrebbe pensare che in percorsi particolarmente dedicati e fissi, come per esempio le corsie riservate tra centro, città ed aeroporti, oppure su particolari direttrici autostradali, uno potrebbe pensare di realizzare questo sistema di ricarica e in questo modo alleggerire un po' le batterie a bordo dei veicoli, che quindi, richiedendo una minore potenza, possono essere anche dimensionate per pesi ed ingombri inferiori. Va bene, grazie, grazie Zaninelli. Grazie a lei e buona serata. Ci fermiamo qui, l'appuntamento come sempre è per domani. Buona serata a voi tutti.